Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Ieri vi avevo promesso che oggi sarebbe tornato Sebastiano Barisoni, come sentite non è così, ma insomma sarà tra noi presto, nessun problema. 349-238-6666 per i vostri sms, come sempre. Di che cosa parleremo oggi? Beh, allora, sono due, direi, le notizie che si impongono in questa giornata. Senza dubbio la vicenda Ferrari e tutte le conseguenze che può avere per la stessa azienda e naturalmente per Fiat, posto che le conseguenze in borsa per Fiat si sono sentite già da stamattina. Il titolo è arrivato a guadagnare circa un 3%, adesso guadagna l'1,36%, con un mercato complessivamente negativo. Il FTSE MIB cede lo 0,4%, il FTSE All Share altrettanto, Parigi lo 0,14%, Francoforte lo 0,3%. Quindi le dimissioni di Luca Cordero di Montezemolo, quindi la sua uscita di scena dopo tanti anni nell'azienda, oltre 25 anni, e l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne che prende, almeno per il momento, il timone del gruppo. Quindi naturalmente di questo parleremo. Di questo parleremo nella seconda parte della trasmissione, a partire dalle 18, con il nostro inviato Enrico Pagliarini e con inviato a Maranello, dove si è svolta la conferenza stampa tra Marchionne e Montezemolo, di Marchionne e Montezemolo, e poi con Paolo Bricco del Sole 24 Ore. In apertura, però, tra poco andremo a cercare di capire che cosa succede con la nuova Commissione europea. Come sapete, come avete sentito anche all'interno dei nostri giornali radio, è stata presentata la nuova Commissione europea da Jean-Claude Juncker. È interessante, sono interessanti i nomi sicuramente, perché insomma fanno titolo, ci servono a raccontare quello che è successo appunto attraverso i nomi e le nazionalità. Ovviamente. Ma è interessante in realtà come si sta costituendo questa nuova commissione, quali sono le competenze, come si incrociano i diritti di veto dei vicepresidenti con le possibilità che hanno i singoli commissari. Bisognerà capire se con questa nuova struttura della commissione, con dei poteri decisionali incrociati che andremo anche a farci spiegare, se la commissione non rimarrà imballata, per così dire, e riuscirà a fare quello che Juncker auspica, ossia cogliere l'ultima occasione per riavvicinare l'Europa ai cittadini. Poi c'è l'Italia e ci sono i consumi. Dati ancora oggi forniti dalla Confcommercio, sono dati particolarmente negativi, che parlano di un reddito disponibile degli italiani che è arrivato al livello di 30 anni fa, con una grande espansione di quelle spese, per così dire, incomprimibili, quindi l'affitto della casa, le bollette, tanto per dire, invece una compressione di quelle spese che si possono comprimere, dove però ci sono anche delle spese necessarie, come per esempio gli alimentari. E di qui ci sposteremo a parlare del mercato del lusso, che è un mercato, consentiteci la frase fatta, un mercato che non conosce crisi ed è, come dire, è molto, molto importante anche per le nostre aziende che vanno all'estero. In questa chiave ci sarà qualcosa da dire anche in merito al caso Ferrari. Tutto questo tra poco. Il numero per intervenire in diretta è sempre il 349-238-6666. Le notizie in breve di oggi. Inizia sull'Europa. Alessandro da Imola scrive di un commissariamento, un rischio commissariamento dell'Europa da parte della Germania. Ci dice che Draghi lo vede un po' circondato, forse lo vediamo un po' circondato anche noi, ne parleremo tra poco. Materie prime innanzitutto, l'oro in lieve rialzo a $1,253 al barile, il petrolio scende dello 0,6% a $92,1 al barile. l'inflazione del Venezuela, perché ve ne parliamo, perché abbiamo un numero impressionante, il tasso ha raggiunto il 63,4% ad agosto. L'indice nazionale dei prezzi al consumo non veniva diffuso dalla Banca Centrale Venezuelana da maggio scorso. Con questo risultato l'indicatore dei prezzi al consumo segna un rialzo del 39% nei primi 8 mesi dell'anno. L'Europa. Ci parlava l'ascoltatore via SMS, Alessandro da Imola, ha firmato Ale, forse Alessio, non lo sappiamo. Comunque, di un Draghi circondato, di una Germania che va a commissariare l'Europa. Abbiamo le parole di oggi della cancelliera tedesca Angela Merkel. Ha messo in guardia oggi nel Bundestag sulla necessità di continuare sulla strada delle riforme e del rigore, sottolineando che la Commissione europea fa bene a fare pressione per questo obiettivo e ha il sostegno della Germania. Il punto interessante, al di là delle enunciazioni di principio sul rigore, è quello che riguarda la stessa Germania, sulla quale, come sapete, è stata esercitata un po' di pressione politica, qualche tentativo di moral suasion mal riuscito evidentemente, affinché la Germania spendesse di più, per farla un po' semplice, e in questo modo stimolasse un po' l'economia di tutta Europa. Ebbene, dice Merkel, per raggiungere i nostri obiettivi è necessaria una stretta disciplina della spesa. Questo vale per l'Europa, ma vale anche per la Germania. Per quanto riguarda la Francia, invece, gli obiettivi di bilancio rivisti è evidente che non sono in linea con le raccomandazioni adottate. Le parole sono del portavoce del commissario europeo agli affari economici, Jyrki Katainen. Ha detto che la Commissione valuterà in autunno se sono state prese azioni effettive per il 2014. Comunque adesso la Commissione cambia, insomma, forse non cambierà nulla nemmeno per la Francia, però dal punto di vista politico qualcosa potrebbe cambiare. Le notizie dall'Italia oggi ci raccontano di un boom ancora per l'asta dei bot ad un anno, tassi al minimo storico, allo 0,271% rispetto allo 0,279% della precedente emissione. E ci sono notizie interessanti invece dal lato fiscale. Innanzitutto una cifra, un dato: dal 2009 a giugno 2014 Equitalia Giustizia, che è la società che gestisce il fondo nel quale confluiscono le risorse sequestrate nei procedimenti penali, ha versato allo Stato 800 milioni. Sono risorse andate a beneficio dei ministeri dell'Interno e della Giustizia. Ma la cosa che più interesserà i contribuenti, la notizia che più interesserà, arriva dal ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, la quale, durante il question time alla Camera, ha detto che entro pochissimi giorni ci saranno sottoscrizione e pubblicazione del decreto ministeriale che in materia di compensazione tra cartelle esattoriali e crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Punto interessante, vedremo che cosa conterrà, insomma, quanto questa idea, appunto, di compensare i crediti delle imprese con le cartelle esattoriali sarà perseguita fino in fondo, perché poi nei decreti bisogna guardarci dentro. Comunica anche Guidi che l'Ilva ha presentato al Ministero dello Sviluppo l'istanza per la concessione di un prestito ponte per 250 milioni. Negoziato con le primarie banche nazionali, e il Ministero ha avviato l'istruttoria per 150 milioni. Confcommercio, vi abbiamo detto, vi faremo sentire una voce tra poco, però, intanto possiamo dire che secondo l'Associazione dei Commercianti il reddito disponibile delle famiglie è tornato ai livelli di 30 anni fa. Nel 2014 il reddito è stato pari a 17.400 euro, mentre nell'86 era 17.200. Come vedete siamo là. C'è il ragionamento sulle spese obbligate che è molto interessante, perché nel 92 le spese obbligate, casa, trasporti, sanità, erano nel 92 il 32,3% delle spese, hanno raggiunto il livello record del 41%. E da segnalare sempre in questi confronti decennali, ventennali che vengono fatti da istituti di ricerca, quello che ci dice il Censis. Per quanto riguarda la casa, la crisi ha dimezzato il mercato, gli scambi sono a livello del 1984. Prevede il Censis una ripresa da metà del 2015. Le altre notizie da dare, poi approfondiremo più avanti, ne parleremo anche durante lo spazio dedicato ai mercati, è l'addio di Montezemolo, Sergio Marchione che diventa il nuovo presidente della Ferrari, ci sono le dichiarazioni, in parte di rito, in parte no, perché comunque Marchione dice che del futuro di Ferrari lui e Montezemolo hanno discusso a lungo. Il desiderio comune di vedere la Ferrari esprimere il suo vero potenziale in pista ci ha portato ad alcune incomprensioni. Lo ringrazio comunque per quanto ha fatto per Fiat. Ringrazio Montezemolo anche per aver portato la Ferrari a un livello tecnologico e organizzativo di eccellenza, così come arrivano anche i ringraziamenti, anche qua, di rito, ma insomma... Montezemolo ha lavorato nell'ambito Fiat per molti anni, quindi è comprensibile che arrivino, e anche che non siano necessariamente di rito, anche ringraziamenti di John Elkann. Primo tema di giornata, la Commissione Europea. Giustamente corretto, vedo adesso gli sms, abbiate pazienza, ho calcolato l'oro in dollari al barile, ragazzi, c'è un lapsus, capita, non è che siamo dei mostri. Naturalmente sono dollari l'oncia. Va bene, allora il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, come sapete ha reso noti gli incarichi affidati ai 27 commissari che compongono la squadra. Ci saranno 9 donne come nella Commissione uscente, 15 componenti fanno capo al centrodestra, la parte destra della coalizione, 5 sono liberali, 8 socialisti. L'olandese Frans Timmermans, primo vicepresidente, una sorta di vicario, ci sembra di capire, con delega al miglioramento della normativa, le relazioni istituzionali, lo Stato di diritto, la Carta dei diritti fondamentali, indicato come braccio destro del presidente. 7 in tutto i vicepresidenti, Federica Mogherini, e lo sappiamo, la bulgara Georgieva a bilancio e risorse umane, la slovena Bratusek all'unione energetica, il finlandese Katainen a lavoro, crescita, investimenti e competitività. E occhio che questo è un falco del rigore. Il lettone Dombrovskis, euro e dialogo sociale. E l'estone Andrus Ansip al mercato unico digitale. E poi non procediamo oltre, vi posso dire intanto, diciamo, su quelli che più direttamente ci competono, è Cecilia Malmström passa al commercio, e Gunther Oettinger all'economia digitale. E abbiamo Moscovici, se non erro, all'economia. I vicepresidenti, dice Juncker, avranno potere di veto. Sentiamo che cosa vuol dire dalle sue parole. Moi je voudrais que nous ne retombions pas dans le travers. Vorrei che non ricadessimo nel tranello di considerare la definizione degli incarichi ai commissari come dei compartimenti stagni nazionali, separati. Se mai c'è stato questo modo di pensare, allora deve finire. Bisogna lavorare in gruppo, fare squadra. È per questo che il ruolo del vicepresidente sarà quello di coordinatore, di organizzatore e di caposquadra. Non è un ruolo di supervisore. Voglio quindi mettervi in guardia dalla semplificazione facile secondo cui i vicepresidenti sarebbero dei supercommissari e i commissari sarebbero dei commissari di seconda fila e seconda categoria. Non è questo il caso. I vicepresidenti e i commissari lavoreranno in squadra con una forte interdipendenza gli uni con gli altri. Cerretelli per il Sole 24 Ore da Bruxelles, ciao, buonasera e bentornata. Buonasera. Bentornata ai nostri microfoni. Allora Adriana, ti convince tutto questo? Perché dall'illustrazione che ha fatto Juncker, dalle cose che ho letto, la questione delle sovrapposizioni, per così dire, tra i vicepresidenti e i commissari, questo diritto di veto, non rischia tutto questo di imballare ulteriormente il lavoro della commissione? Ma sicuramente sì, nel senso che la prima impressione è che l'impostazione, diciamo, intellettuale sia buona, nel senso che avere delle aree progetto con delle politiche, diciamo, coordinate più strutturate e che quindi evitino le eccessive burocratizzazioni, le iperregolamentazioni e legislazioni eccetera, sia una cosa non buona ma ottima. Ma il problema è poi nei fatti come si potrà coordinare tutto questo e soprattutto con le personalità che ci saranno in campo, perché io ci vedo male per esempio un Moscovici che possa chinare umile il capo a un Dombrovskis, perché sarà in parte dipendente dall'Ettone, ex premier Dombrovskis, e dall'altra all'ex premier finlandese Katainen. Quindi io credo che le intenzioni siano sicuramente buone, che vadano verificate sul campo, con il rischio di un'enorme confusione, di enormi rivalità. Probabilmente ci vorrà un rodaggio della formula, e io credo poi che con un pragmatismo, con buon senso, se si vede che non funziona, si farà un passo indietro. L'idea, in particolare per quanto riguarda l'economia, Adriana, che poi è quello che ci interessa in questa sede, è che si sia cercato appunto di mettere insieme, di equilibrare, no? Il rigorista con il non rigorista sostanzialmente, no? Perché da una parte abbiamo un Katainen che sappiamo chi è, e dall'altra parte abbiamo Moscovici, il francese. Certo, si tenta di mettere d'accordo il diavolo con l'acqua santa, in sostanza il rigore del nord con il presunto lassismo del sud. Dico presunto perché di lassismo ce n'è naturalmente, nel senso che le riforme non si fanno, sono anni che, diciamo, si tira alla lunga sia in Francia che in Italia eccetera. Però al tempo stesso oramai questo tirar tardi coincide con una recessione che è assolutamente indiscutibile, e quindi diventa molto più difficile fare le persone, virgolette, serie, mantenere gli impegni. Ed è un po' questa la grande sfida che avrà davanti a sé la Commissione Juncker. Certo, lui ha messo due falchi a coordinare, diciamo, le piramidi economiche, perché sono due in realtà, una quella dell'euro affari sociali, l'altra quella della crescita sviluppo. è competitività. E a tutte e due in qualche modo Moscovici dovrà fare capo. E quindi le tensioni potranno essere molte. Naturalmente Juncker ha lasciato intendere, alla fine sarò io a mediare. Però certamente in un settore così delicato, in un'Europa che sta vivendo un momento delicatissimo con le opinioni pubbliche che stanno diventando sempre più euroscettiche, eccetera, delle tensioni o delle confusioni su problemi chiave come appunto il rispetto degli impegni della politica di stabilità, la speranza di maggiore flessibilità, sono tutte cose che naturalmente potranno influenzare sia l'efficienza delle politiche dell'euro, politica economica intendo, sia la credibilità in generale dell'integrazione europea, perché se dovesse perdere consenso popolare naturalmente questo non giocherebbe a favore della credibilità dell'Europa. Adriana, un'ultima domanda che riguarda naturalmente il nostro ruolo, la tanto discussa decisione del nostro esecutivo di candidare Federica Mogherini come alto rappresentante della politica europea. Da quel che si è riuscito a capire, dalle deleghe assegnate, che ruolo potrà svolgere Mogherini? Ma io credo che l'Italia con Mogherini si sia resa conto che la conquista di quella poltrona lasciava scoperto il fianco della Commissione europea, là dove appunto si prendono le decisioni economiche e finanziarie di cui stavamo dicendo prima. Allora per la prima volta la Mogherini ha chiesto e ottenuto di avere il suo quartier generale, il suo gabinetto, non nella sede attuale che è quella del servizio di azione esterna, bensì dentro la Commissione. E questo segnala certamente il fatto che la Mogherini vuole, al contrario della Ashton, essere più presente nella vita della Commissione europea, perché è quella appunto che riguarda più direttamente i nostri interessi, mentre la politica estera europea al momento è un oggetto ancora misterioso, tutto da inventare, tutto in divenire. E tutto questo dovrebbe aiutarci a poter difendere anche i nostri interessi più contingenti, più immediati, più importanti dentro la Commissione europea, quando appunto si preparano le raccomandazioni, si decide se le riforme strutturali possono essere degne di avere più o meno, di ricevere in premio più o meno margini di flessibilità, insomma cose di importanza assolutamente strategica per noi in questo momento. E quindi appunto direi che la Mogherini e l'Italia insieme hanno capito che bisognava andare in questa direzione, così sembra che sia. Eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. Ora, noi possiamo fare tutta la lista, però ci chiedete in due chi è il commissario all'agricoltura. È Phil Hogan, che è un irlandese. Non male la battuta di Marco, che ci scrive parlando, suppongo, appunto della nuova Commissione europea, se non ci sembra vedere il Senato della Repubblica di Guerre Stellari. Speriamo solo che non salti fuori un Sith. Il cattivo, giusto per chiarire, perché non è che tutti lo sanno. Paola Bottelli del Sole 24 Ore mi ha raggiunto in studio, ciao. Buon pomeriggio. E di Moda 24 naturalmente. Allora, con te tra poco parleremo dei consumi di noi comuni mortali, appunto quelli, i dati illustrati oggi da Confcommercio. In calo, molto, molto pesante, parlano di un reddito disponibile rimasto fermo a 30 anni fa. Là fuori però, soprattutto per le imprese italiane, c'è un mondo, che è il mondo del lusso. Classica banalità, il mondo del lusso, la crescita del lusso non si ferma mai. Effettivamente è così. Domani farai un pezzo nel quale pubblicherai i dati su tutto questo. Ci dai un'idea della dimensione di questo mercato e di come siamo piazzati? Allora, le dimensioni di questo mercato sono gigantesche, perché quando parliamo di lusso generalmente ci focalizziamo su quella che è la moda, chiamiamola così, quindi gli abiti delle sfilate, le belle borse che tutte le signore vorrebbero avere, i gioielli e gli orologi e le scarpe di cui l'Italia è leader mondiale nella produzione nell'alto di gamma. In realtà tutto questo mercato che si chiama lusso personale vale come consumi al dettaglio, quindi prezzi finali, 240 miliardi di euro all'anno nel mondo, ripeto, ma è battuto da una serie di altre categorie che sono molto più consistenti. Le auto di lusso, che sono un tema alla ribalta in questi giorni, particolarmente caldo, tra l'altro ricordo ancora agli ascoltatori, non è che ci siamo dimenticati della Ferrari, ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, prego Paolo. Quindi le vendite di auto di lusso valgono 280 miliardi di euro all'anno e sta sbocciando il lusso cosiddetto esperienziale, una parola italiana un po' strana che molti di voi non avranno mai sentito, che è la somma di tutto quello che è lo star bene personale, quindi sono i viaggi, quindi è stare nel bel hotel, viaggiare su una bella barca, uno yacht. Gli italiani sono forti, ma sapete che il settore della nautica comunque sta vivendo una fase non facile. Il cibo, nel quale siamo ferratissimi, i vini, l'arredo design, la tecnologia, l'arte, tutto questo mondo di lusso esperienziale vale, secondo stime della Boston Consulting, 670 miliardi di euro all'anno. Allora, 1200 il totale. 1200, allora è una cifra enorme, vorrei capire quanto riusciamo a grattare di questa cifra. La quota di mercato dell'Italia è rilevante, è difficile calcolarla, non ce li abbiamo questi dati. Noi sappiamo che nel lusso personale siamo comunque tra i leader, tra l'altro analizzando i dati della produzione e dell'export del sistema moda italiano si testimonia come il fatto che tante griffe francesi facciano produrre qui le loro cose, le loro borse, le loro scarpe, i loro abiti, perché si fidano del know-how che abbiamo qui, si traduce anche in esportazioni molto forti del nostro paese verso la Francia. Quindi sul lusso personale siamo messi bene, sulle auto di lusso non possiamo lamentarci, mi sembra, perché abbiamo dei marchi assolutamente importanti, o marche come si chiamano nel settore auto. Anche sulle parti di esperienziale secondo me abbiamo quote importanti, perché comunque non dimentichiamoci il food, il vino, certo si potrebbe fare anche molto di più. L'arredo design è un settore nel quale l'Italia è leader mondiale, nel top di gamma. Si può fare però molto molto di più. Molto molto di più. Volevo capire esattamente questo. Allora, siamo di fronte a una situazione economica mondiale nella quale la Cina, pur continuando a crescere dei ritmi che noi riteniamo impensabili, sta evidentemente rallentando e i segnali continuano a moltiplicarsi. Abbiamo un problema con l'impatto delle sanzioni, anzi delle controsanzioni della Russia nei confronti dell'Europa. Mi pare che la stima di oggi del ministro Guidi desse una cifra intorno ai 100 milioni di euro circa, quindi qualcosa di piuttosto pesante, e però la realtà è che ci sono mercati nuovi che continuamente si aprono. Sì, quello della Russia è il problema principale che abbiamo in questo momento. Ci sono settori come il calzaturiero che vedono la Russia come il primo mercato, quindi questo l'impatto può essere veramente devastante. La Cina sta rallentando, ma non dobbiamo pensare che cali, sta rallentando rispetto a crescite che erano anche a doppia cifra e che sono inimmaginabili, cioè non è che possono andare avanti a tappe forzate all'infinito. Direi che comunque il numero dei ricchi... Ah, detto ciò, chi ne soffre del rallentamento sono i cinesi poveri, non quelli appunto, ricchi. Appunto, perché i ricchi, gli Stati Uniti stanno performando benissimo per tutto il mondo del lusso, perché i ricchi lì sono veramente tanti. Sul Sole, su Moda 24 abbiamo fatto anche una bella analisi delle città cosiddette minori, dove stanno crescendo di più i paperoni. I ricchi nel mondo aumentano tanto quanto purtroppo aumentano le diseguaglianze sociali, però ci sono ricchi che sono sempre più ricchi, aumenta questo numero e segnalo anche che ad esempio un mercato ancora ad aprire, che è quello africano, già fa vedere dei piccoli accenni di dati molto interessanti. Al duty free shop dell'aeroporto di Londra lo scontrino medio dei viaggiatori che vanno dall'aeroporto di Londra alla capitale della Nigeria è il più alto in assoluto, cioè sono persone che comprano borse di coccodrillo da 20 25.000 sterline o cose di questo genere. Quindi sono mercati che si stanno aprendo in paesi molto ricchi, Angola, Nigeria, il Sudafrica e anche altri. Certo, sono paesi dove c'è anche tantissima povertà. Grazie, grazie a Paola Bottelli a del Sole 24 Ore e di Moda 24 per essere stata con noi. Tutti i dettagli domani sul Sole 24 Ore. Vediamo. Uscirà dopodomani, tra l'altro venerdì 12 settembre, con il Sole 24 Ore, il primo numero italiano di How to Spend It, il mensile del Financial Times, leader mondiale nel settore del lusso. C'è moda, motori, auto di lusso, design, antiquariato, arte, cucina. Ci saranno sia contenuti tradotti dall'edizione inglese che contenuti originali prodotti dal Sole 24 Ore. Stasera a Milano una serata evento esclusiva organizzata per il lancio di How to Spend It in Italia. Parlato di lusso, di moda e dei mercati internazionali di questi settori. Torniamo sulla terra con i dati di Confcommercio che ci raccontano di redditi tornati a 30 anni fa. Il direttore del centro studi, Mariano Bella, intervistato da Adriano Palazzolo. Trovare dati rassicuranti oggi, diciamo, è abbastanza difficile, ma vogliamo comunque avere una visione positiva per il futuro prossimo. Bisogna però evitare di nascondere la realtà. L'uscita dalla recessione dei consumi degli ultimi anni appare lentissima, anche in confronto con l'episodio 2009-2010 in cui uscimmo temporaneamente dalla crisi dei consumi. Oggi veramente siamo a un ritmo quasi impercettibile, quindi questo giustifica la nostra richiesta di procedere, di insistere, di accelerare con le riforme strutturali, con la spending review e soprattutto con la riduzione generalizzata delle imposte, che dovrebbe coinvolgere anche i lavoratori indipendenti e i pensionati, fino adesso ingiustamente esclusi per esempio dal provvedimento del bonus degli 80 euro. Quello che emerge dalla nostra riflessione sui consumi è purtroppo la continua crescita del peso delle spese obbligate, cioè quelle spese come gli affitti, l'energia, l'acqua e i rifiuti, sulle quali, diciamo, non si può esercitare una piena libertà di scelta da parte dei consumatori, perché sono offerti in mercati poco liberalizzati e i prezzi di questi beni, di questi servizi sono cresciuti moltissimo, più del doppio rispetto ai prezzi dei consumi commercializzabili, e questo sostanzialmente riduce la libertà di scelta e giustifica anche il senso di disagio che oggi i cittadini italiani percepiscono. Lei poco fa parlava di imposte. Ecco, le famiglie italiane devono far fronte anche ad una pressione fiscale sempre più forte. In questi giorni c'è anche la TASI da pagare. E questo elemento della TASI ha generato e continua a generare grande incertezza, non soltanto riteniamo che dal punto di vista macroeconomico neutralizzi larga parte delle riduzioni di cuneo fiscale che il governo ha messo in campo a partire da giugno, e quindi questo peggiora la situazione del reddito disponibile, dei consumi e quindi del prodotto lordo, ma c'è anche un effetto incertezza perché non è chiaro l'ammontare dei tributi che bisognerà pagare tra oggi e il 31 di dicembre. Se si potesse accelerare su questo punto, fare chiarezza e in prospettiva futura anche con la delega fiscale riordinare la tassazione in generale, soprattutto quella sulle abitazioni in particolare, ecco, questi sarebbero elementi di aiuto all'economia e alla fiducia sia delle famiglie che delle imprese. Ci sono dei segnali di recupero? Si riesce a fare una previsione per i prossimi trimestri? A nostro avviso nei prossimi trimestri avremo un miglioramento dei consumi, come dicevo prima, e questo miglioramento però sarà straordinariamente debole. Noi riteniamo che sui consumi si possa chiudere un 2014 bruttino, se non pessimo come gli anni passati, diciamo più 0,2%, chiaramente per avere un segno positivo sul prodotto interno lordo ci sarebbe bisogno di un miracolo nelle ultime settimane del 2014, ma l'economia e la statistica non sono in grado di prevedere questi miracoli, quindi per noi è il 2014 è un anno molto molto difficile, forse sarà un anno di recessione, il terzo consecutivo dopo il 2012 e il 2013. Niente di buono all'orizzonte, dunque, nemmeno secondo Confcommercio. La giornata sui mercati vede una chiusura debole alla fine, dopo che gli indici hanno oscillato parecchio intorno alla parità, poi sono arrivati a perdere intorno al 6%. Il FTSE MIB chiude in calo dello 0,04%, il FTSE All Share dello 0,08%. Più o meno in linea con tutte le altre piazze finanziarie europee, lievemente positiva l'America, ma proprio di poco, più 0,05% il Dow Jones, il Nasdaq guadagna lo 0,25%. Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, prima un quadro generale. Sì, oggi le borse hanno registrato questa tendenza abbastanza incolore, visto che diciamo sale un po' l'attesa, soprattutto per quello che è il referendum della Scozia, si inizia a temere che sia effettivamente una possibilità la secessione della Scozia. Tra l'altro questo è rimbalzato anche oltreoceano direttamente a Wall Street. In più gli investitori attendono anche la riunione la prossima settimana della Federal Reserve per dettare le linee di politica monetaria, e tutto questo ha indotto ovviamente a un atteggiamento molto prudente sulle borse, insomma si è tirato i remi in barca da parte degli investitori. La questione Fiat naturalmente in primo piano, è stato il titolo migliore sul listino, un più 1,88%, quantomeno sul listino principale. Eleonora, poi più avanti nella seconda parte della trasmissione approfondiremo tutto, sentiremo le voci di Sergio Marchionne e di Luca Di Montezemolo, ne parleremo con Enrico Pagliarini, nostro inviato a Maranello, e con Paolo Brico del Sole 24 Ore. E però naturalmente il titolo Fiat si è mosso sulla base oggi dell'avvicendamento al vertice di Ferrari, no? Sì, diciamo che innanzitutto gli analisti, ma anche il mercato, è positivo su questo avvicendamento, se non altro perché potrebbe essere foriero di imminenti novità. Si è iniziato a ragionare sull'eventuale spin-off di Ferrari, sulla sua quotazione, tant'è che questa mattina anzi le azioni di Fiat guadagnavano molto di più, erano arrivate a guadagnare quasi il 3%. Poi diciamo si è smorzato un po' tutto. Facciamo una cosa Eleonora, perché noi abbiamo l'audio di Marchionne nel quale fa capire come si smorza la cosa di una possibile quotazione Ferrari. Via. Noi non abbiamo nessun piano adesso, che io abbia sulla mia scrivania, per quanto riguarda un IPO di Ferrari. Ma sono 10 anni, ve l'ho ripetuto il 6 maggio, ho fatto vedere pure la slide, ho detto che non era in vendita. Io non ero sicuro. Però, forse mi devo fare delle magliette, dice smettete di farmi le domande sull'IPO della Ferrari. Le magliette di Marchionne, Eleonora, quindi smentita almeno per il momento una possibile quotazione di Ferrari. Esatto, e dopo le parole che si sono appena sentite, infatti Fiat ha un po' rallentato il passo, comunque il mercato continua a scommettere che questo incarico che si è assunto lo stesso Marchionne possa essere, ripeto, foriero di novità, comunque ci scommette. Tra l'altro la buona performance di Fiat ha trascinato al rialzo anche Exor, che ha fatto più 0,3%, e diciamo la consorella CNH, che ha fatto più 1,4%. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. Come sempre il 349-238-6666 per i vostri sms. Tra un attimo verremo a Fiat, cioè più che Fiat naturalmente Ferrari, il cambio della guardia al vertice oggi e quali prospettive si aprono, ma prima chiudiamo il nostro appuntamento di borsa. Torno a salutare Eleonora Micheli di Radio Coro del Sole 24 Ore, eccoci di nuovo Eleonora. Allora di Fiat abbiamo già parlato ampiamente dal punto di vista dei mercati, naturalmente ci sono un altro paio di titoli su cui ti vorrei sollecitare, a partire da Monte dei Paschi, un più 1,8%. Sì, Monte dei Paschi rimane sotto il centro dell'attenzione, ricordiamo che di recente il presidente della fondazione, neopresidente Claric, ha indicato che avrebbe auspicato che il patto di sindacato, che adesso detiene il 9% della banca, si allargasse magari con il socio AXA. D'altra parte AXA ha fatto sapere che questo non è possibile per leggi americane che lo vietano, e dunque il titolo è andato su perché al mercato piace sempre la contendibilità, e quindi il fatto che il patto contro alla fine solamente il 9% viene comunque considerato positivamente dalla borsa. Bene Saipem più 0,6%, e bene Telecom Italia mezzo punto percentuale di guadagno, cioè bene si fa per dire, insomma, però abbastanza bene, diciamo. Abbastanza bene, ma ha corso molto nei giorni scorsi, continua la speculazione sulla società, ci si interroga sul futuro della compagnia, in particolare se sia sul punto di cedere Team Brasil. Ricordiamo che i vertici hanno più volte detto che Team Brasil è strategica, d'altra parte circolano indiscrezioni su offerte che sembrano abbastanza generose da parte di una cordata di compagnie brasiliane, e quindi alla fine la compagnia potrebbe decidere per uscire dal Brasile. Comunque invece si sono un po' raffreddate le ipotesi di avvicinamento a Mediaset, infatti Mediaset, che la scorsa settimana aveva guadagnato all'incirca il 10% in borsa, è dal lunedì che va giù, e anche oggi si è sgonfiata ulteriormente perdendo il 2,7%. 2,7% di calo per Mediaset. Infine vedo, dato che ne abbiamo parlato prima, piuttosto debole il lusso, Ferragamo meno 2,2, Jux meno 1,9, Tots meno 0,6%. Sì, esatto, appunto il lusso oggi è andato abbastanza male, del resto nell'ultimo periodo è molto, molto volatile, bisognerà vedere con i prossimi dati trimestrali come saranno gli andamenti del fatturato delle aziende. Comunque un primo test importante sarà a partire dalla prossima settimana, quando a Milano inizieranno le sfilate per le collezioni femminili. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Cori Il Sole 24 Ore e ai colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore per i consueti aggiornamenti e chiarimenti sui mercati. E ora finalmente andiamo a parlare di Ferrari. Stiamo parlando di un marchio che per il 90% del pianeta è automaticamente associato all'Italia, oppure quando si parla d'Italia automaticamente si associa a Ferrari. Marchio addirittura davanti a Google in alcune classifiche, un valore come marchio da 4 miliardi di dollari. E oggi il cambio della guardia. Il nostro inviato a Maranello, Enrico Pagliarini. Buonasera Enrico. Buonasera a tutti. E Paolo Bricco del Sole 24 Ore in studio con noi. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Enrico, partiamo dal lato sentimentale, se vogliamo. 23 che finiscono per Luca di Montezemolo. Sì, se vogliamo iniziare dal sentimento, possiamo anche dire che Montezemolo ha portato a casa 137 vittorie in Formula 1, 6 mondiali piloti, 8 costruttori, quindi in totale 14 mondiali, e devo dire, ma questo lo ha riconosciuto anche Marchionne questa mattina, mai nessuno ha vinto così tanto all'interno della Ferrari, e va detto che nella parabola che si è conclusa oggi, o che si concluderà per meglio dire il 13 di ottobre, perché poi magari ne parleremo, si arriverà al 13 di ottobre nella presidenza Montezemolo. La parabola è stata una parabola eccezionale, perché la Ferrari, quando la prese Montezemolo, era messa piuttosto male, sia dal punto di vista commerciale per le auto da strada, sia dal punto di vista della Formula 1. Oggi i problemi più grossi ci sono in Formula 1, perché dal punto di vista commerciale per le auto da strada, anche questa mattina, questo pomeriggio alle 14, la conferenza stampa che c'è stata nel primo pomeriggio, Marchionne ha riconosciuto che l'azienda è in ottima salute, quindi da questo punto di vista nulla succederà, tant'è che oggi, tra le tante notizie, è arrivata la conferma che Amedeo Felisa, che è un personaggio piuttosto sconosciuto, che lavora nell'ombra, è l'amministratore delegato e rimarrà l'amministratore delegato della Ferrari ancora per i prossimi mesi, i prossimi anni. Sì, quindi un tentativo di dare continuità. Giro d'affari 2,3 miliardi di euro, 2013 chiuso con 363 milioni di utile, un più 8% rispetto all'anno precedente. Inizia già qualche ascoltatore, no, a farci delle domande sul futuro della Ferrari, e c'è chi dice, come Vasco da Vicenza, Marchionne si porterà via anche la Ferrari dall'Italia. Per il momento ha smentito. Quindi questo concetto della società americana la trovo veramente strana. A parte il fatto che una gran parte delle nostre attività sono in America, adesso con la Chrysler, e quindi la maggior parte dei volumi del resto delle vetture che non vengono fatte dalla Ferrari, vengono prodotte in America, vengono distribuite in quella zona economica. Ma l'azienda non ha niente a che fare con l'America. Ha accesso ai mercati americani, vende vetture in quel mercato là, avrà accesso ai mercati finanziari americani, avrà accesso a tantissime risorse per aiutare lo sviluppo del gruppo nel suo insieme. Se queste attività di sviluppo, io chiamo strategico / finanziario, vanno a impattare minimamente sulla struttura di un'azienda che è nata e morirà italiana come la Ferrari, stiamo proprio esagerando, eh? Cioè, noi, l'idea è che una Ferrari possa essere prodotta al di fuori di questo posto è osceno. Ed eccoci, molti messaggi, molti sms di ascoltatori. Sebastiano scrive: se l'anno prossimo la Ferrari non vince o cala il fatturato, Marchionne si gioca la reputazione. Roberto ci segnala che la paura che hanno ora le ditte di Maranello è che tutto l'indotto venga dato all'estero, perdendo posti di lavoro a Modena. Io non so quanto si possa portare all'estero l'indotto di Ferrari. Paolo Brico già scuote la testa. Paolo. No, è impossibile, tanto che ricordiamo ad esempio come la Fondazione Edison, che è una delle fondazioni che conoscono e analizzano meglio il tessuto produttivo italiano, ha creato in questi anni il cosiddetto Ferrari Index, che è proprio basato sulla rilevazione costante delle attività sia manifatturiere che reddituali che di export di quel sistema produttivo locale che c'è a Maranello, a Fiorano, nella dorsale della Emilia Romagna, quindi la grande strada delle auto e delle moto, delle motociclette, della meccanica e della meccatronica, e quindi, come dire, è assolutamente una paura che non ha ragione di essere. È un sistema molto integrato in una fabbrica che già di per essa è integrata, e quindi davvero questo problema industriale non esiste. Paolo, a proposito di questa ipotesi del polo del lusso, ci spieghi in cosa consiste, posto che per oggi Marchionne ha smentito, ma naturalmente, insomma, se si fanno operazioni di questo genere non è che lo si dice nella prima conferenza stampa dopo il cambio del vertice. Sì, esistono due piani: esiste il piano del ora e adesso, ed esiste un piano di medio e lungo periodo. Ora e adesso la Ferrari in qualche maniera è stata anche strategicamente e psicologicamente riaggregata al grande aggregato di Fiat Chrysler Automobiles, in maniera tale che all'IPO a Wall Street il 13 di ottobre in qualche maniera si estragga il maggior valore possibile per questo grande gruppo transnazionale che è nato, come dire, dalle ceneri di Chrysler e anche anche dal turnaround effettuato dal 2004 in avanti da Sergio Marchionne per una Fiat che allora era in condizioni prefallimentari. Quindi in qualche maniera questo Ferrari è un cardine di questa struttura finanziaria strategica, e anche un cardine sul breve periodo per riuscire a fare un upgrading per l'Italia delle fabbriche verso l'alto, e quindi di qui l'idea appunto del polo del lusso automotive interno a FCA, che ha una matrice italiana, perché ricordiamolo, oltre a Ferrari c'è anche Maserati e c'è anche la sempiterna Alfa Romeo, ecco, che di cui appunto si favoleggia da sempre un rilancio e anche un desiderio da parte della concorrenza. Volkswagen spesso ha fatto ammiccamenti da questo punto di vista. Poi esiste anche un piano più, diciamo, di lungo periodo, su cui adesso in moltissimi analisti, banchieri d'affari, avvocati d'affari in qualche maniera esercitano la loro fantasia, diciamo così, che è quella dell'auspicio che in qualche maniera questo polo dell'auto possa avere una funzione catalizzatrice per riuscire sul medio periodo a creare a sua volta un polo del lusso che non sia soltanto automotive, secondo una concezione proprio industriale e finanziario strategico del Made in Italy, che in qualche maniera non si limiti soltanto al grande lusso dell'auto, ma che possa magari anche riuscire ad attirare anche grandi griff italiane, in maniera tale in qualche maniera da creare le condizioni perché ci possano essere delle risposte anche a LVHM, ai grandi aggregati. Questo perché? Perché obiettivamente il sistema industriale italiano ha un problema di massa critica, e di capacità di creare strutture logistiche che riescano ad arrivare ovunque. Questo noi nelle catene internazionali di valore siamo molto in basso, e quindi questi esercizi, chiamiamoli intellettuali oppure esercizi di suggestione economica, hanno questo tipo di scenari nella testa. Allora, io ringrazio Paolo Brico del Sole 24 Ore e torno dal nostro Enrico Pagliarini a Maranello, perché è così Paolo Brico ci ha portato su quello che è il cuore del problema, il cuore della questione, e quello da cui è nato tutto, cioè al di là dei contrasti e delle incomprensioni tra Marchionne e Montezemolo, delle quali lo stesso Marchionne ha parlato, per fare operazioni di questo genere, per portare il lusso italiano all'estero, che sia solamente auto o che comprenda anche altro, serve un marchio. Il marchio Ferrari c'è, però per mantenere il marchio servono i risultati sportivi. È là, Enrico, mi sembra di capire, che nasce tutto. Sicuramente. Va anche detto che, e lo hanno ripetuto, ma anche se non l'avessero ripetuto, comunque lo sappiamo, i due, stranamente, le due cose sono sì collegate, però stranamente negli ultimi anni la Ferrari non ha ottenuto grandi risultati in Formula 1. È vero che è andata vicino al mondiale nelle ultime due stagioni, ma le vendite sono andate benissimo, quindi il rapporto c'è, non è un rapporto strettissimo. Certo è che sul lungo periodo, sul medio e lungo periodo, se si continua a non vincere, poi qualche cosa potrebbe succedere. Aggiungo anche una cosa sulle paure di quelli che dicono: ah, adesso portano via tutto qua, poi la Ferrari diventa americana. Allora, qua la Ferrari, un'automobile non è come l'iPhone, quindi non è che lo puoi disegnare in California e produrre tutto in Cina. Molti clienti vengono a Maranello a ritirare la propria automobile, insomma è un po' più complesso e un po' più difficile portare via pezzi di un'azienda che effettivamente, come diceva Brico, è integrata. Qua vengono prodotti i motori, il telaio, insomma viene fatto tutto qui, e quindi da questo punto di vista mi sentirei abbastanza tranquillo. Sicuramente la mossa e la presidenza di Marchionne servirà anche per aumentare l'appeal di questo brand negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti continuano ancora oggi ad essere il mercato più importante per la Ferrari, ed è un mercato che negli ultimi anni è sempre cresciuto e non ha mai accennato a perdere un colpo. E sicuramente con la quotazione in borsa, la Fiat Chrysler che diventa un po' più americana, sicuramente all'interno di questo tassello va inserita anche questa operazione. Per quanto riguarda la Formula 1, non possiamo certo aspettarci risultati eclatanti, sicuramente non per quest'anno, ma probabilmente nemmeno per il prossimo anno, perché con l'attuale regolamento trasformare o comunque cambiare i progetti di un'automobile da un anno all'altro non è facile. Sicuramente vedremo qualche novità nei prossimi mesi, perché mi aspetto che oltre al cambio al vertice ci sarà qualche decisione anche sul team, sulla scuderia, però non penso che quest'altr'anno potrà esserci una rivoluzione, vista tra l'altro la distanza che c'è con la Mercedes attuale. Allora, ringrazio ancora il nostro Enrico Pagliarini, inviato a Maranello, che ha seguito tutto quanto, ci ha riportato anche per IGR, sentirete la sua voce tra poco nel giornale radio delle 19. Ringrazio Paolo Bricco, e adesso noi ci andiamo ad ascoltare un po' di voci. Iniziamo da Marchionne, poi andremo a sentire anche qualcosina di Montezemolo prima di chiudere. Al di là delle battute, scrive un ascoltatore, Marchionne farà la Ferrari Duna o Arna, ragazzi, mi sembra veramente troppo. Sentiamo Ferrari nel sistema Fiat. La Ferrari ha dell'importanza da non sottovalutare nel sistema della Fiat. E quindi il fatto che sia venuto io qua da presidente significa molto. Quindi non è una cosa temporanea, mentre... No, mi creda. L'impegno è duraturo. Non c'è la minima intenzione di integrare le operazioni di Ferrari nel resto del sistema di Fiat Chrysler. Questo è un accordo, è una delle quelle poche cose che ho indovinato nel 2004 quando sono arrivato a gestire questo gruppo, è quello di proteggere l'integrità della realtà della Ferrari, di non farla inquinare da un sistema di automobilistico di mass market. Altre cose ve le abbiamo dette, ve l'ha detto anche Enrico Pagliarini. Felis resterà l'amministratore delegato della Ferrari. Luca Cordero di Montezemolo, che parla del traguardo della quotazione di FCA. Sentiamo. Si apre una fase nuova ed è giusto che una fase nuova non la apra un giovanissimo presidente che però è qui da 23 anni, ed è giusto che si apra in un modo differente e che, se posso anticipare, la apra l'amministratore delegato dell'intero gruppo, e quindi proprio a dimostrazione che questa è una grossa operazione di squadra, di gruppo verso il futuro. Quando, non me lo dimentico più, ricevetti un sabato del giugno del 2004 la richiesta di fare del 2004 di fare il presidente della Fiat, non dimentico la situazione in cui si trovava la Fiat, e penso che il traguardo del prossimo ottobre, lo ripeto ancora una volta, sia un traguardo epocale. Adesso io ho capito la scarsa fiducia, ma perché la testa e la progettazione, come ci scrive Ennio da Bergamo, di Ferrari dovrebbero essere portati in America? Io sinceramente, al momento, da un punto di vista industriale, come ci ha raccontato Paolo Bricco, come ci ha spiegato Enrico Pagliarini, è una cosa che non ha senso. Gli ingegneri Ferrari ce l'hai là, il capitale umano ce l'hai qua, hai la filiera produttiva, hai chi insomma ti può aiutare a capire determinate cose. Hai anche, se vuoi, il fascino del Made in Italy, che per certi versi conta, anche il fatto che sia progettata, pensata e fatta in Italia. Poi vedremo. Sono pronto ad essere smentito, per carità. Grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in assistenza in redazione, Pietro Lacorte in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Noi ci sentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Mi raccomando, vi aspetto. Radio 24. La passione si sente.